in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani tutti italiani oggi, anche perché poi volendo anche guardare quelli stranieri, anche sugli quotidiani stranieri il coronavirus è il domina tutte le prime pagine, quindi farei come domenica scorsa, una scorsa dei titoli principali, le pagine di approfondimento, naturalmente tantissima cronaca, ma per quella ci sono soprattutto secondo me i GR, il sito di Radio 24, il sito del Sole 24 Ore o altri siti, perché quella si aggiorna continuamente. Tra l'altro oggi ci sarà appunto anche un Consiglio dei Ministri, quindi anche da lì verranno delle novità. Il Sole 24 Ore, primo stop a tasse e contributi, una cosa che veniva chiesta da parecchi giorni ma che naturalmente andava messa a punto, 9 settimane di CIC per tutti. Oggi il decreto legge, sospensione generalizzata dei pagamenti fiscali per 6-7 giorni, poi altri 2 mesi solo per chi starà sotto una soglia di reddito. Voucher babysitter doppio per medici e infermieri. Qui naturalmente poi si porrà il problema di trovare queste persone che si prestano, va bene, c'è il voucher, però chi potrà fare questo, chi potrà offrire questo servizio di babysitter? E poi naturalmente, ma questo capisco che può sembrare così inopportuno, ma bisognerà tenerne conto, c'è anche tutto il problema dei lavoratori in nero, e sono per esempio tante badanti o tante persone che puliscono le nostre case. In quel caso come si fa? Perché sono tutte persone che sono a casa per questa stortura naturalmente dal lavorare in nero, ma sono a casa anche loro senza uno stipendio. Il Corriere della Sera, le regole per chi lavora, quindi più o meno lo stesso focus del Sole 24 Ore, poi però qui c'è anche l'accenno a quello che avete sentito anche nel GR, questa lite con la Protezione Civile e il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che ha nominato Guido Bertolaso, nome che si era fatto nei giorni, nelle settimane scorse, anche come commissario straordinario. Poi sapete che invece è stato nominato, e oggi ci sarà la nomina ufficiale, Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Ora Bertolaso appunto diventa invece consulente, super consulente, diciamo commissario straordinario potremmo dire, ma per la Lombardia. Un accenno anche al fatto che sono state chiuse Francia e Spagna, in particolare la Spagna più che la Francia, che oggi va a votare con le municipali, con questo consiglio, come vedremo per esempio, di portarsi la penna da casa. Voi sapete che le penne standard sono, le penne o le matite standard nelle urne sono uno dei metodi per contrastare qualsiasi tipo di broglio, quindi già questa è un'anomalia, ma si era capito da parecchi giorni che Emmanuel Macron non aveva intenzione di far slittare queste municipali. Si vota, tra l'altro, lo vedremo su alcuni giornali in modo più approfondito, anche per il sindaco di Parigi. Ma dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, che del Corriere è stato direttore per 2 volte, è stato direttore anche del Sole 24 Ore. Si intitola "I nostri anziani da ringraziare". Avrete sentito che anche ieri la media delle persone morte per qui c'è tutto il tema di come si classificano le persone che muoiono e sono trovate positive al coronavirus e muoiono perché contraggono questa polmonite molto aggressiva e che appunto li porta in terapia intensiva e poi li porta alla morte. Hanno sempre quasi sempre delle condizioni pregresse, quindi comunque questo è un tema che divide gli esperti. Devono essere classificati come morti per coronavirus o come morti per cause legate al pregresse e peggiorate dal coronavirus? C'è per esempio il tema, questo è evidente nei bollettini che vengono in particolare dalla Germania, è molto difficile che lì ci siano così tanti meno morti, e quindi ci potrebbe essere un problema di classificazione. Lo vedremo nei prossimi giorni, sono al lavoro sia gli istituti, l'Istituto Superiore di Sanità e l'equivalente negli altri paesi, e anche naturalmente scienziati, virologi, epidemiologi. E però, dicevo, il dato ancora di ieri è che la media delle persone che muoiono, la media di età è superiore agli 80 anni. E quindi Ferruccio De Bortoli che scrive: i nostri anziani da ringraziare. Dobbiamo essere orgogliosi di come il paese reagisce all'emergenza. E in questa domenica, che non vogliamo sia triste, teniamoci su, ce la faremo, il nostro grazie va ancora una volta a medici, infermieri, al personale degli ospedali, all'intera struttura nazionale di assistenza. Ieri a mezzogiorno è esploso un applauso collettivo per loro, ma il nostro grazie va anche a tutti coloro che non possono stare a casa perché debbono provvedere alla necessità di chi sta forzatamente a casa. Un pensiero particolare vorremmo dedicarlo però ai nostri anziani. Siamo uno dei paesi più vecchi al mondo. Non è una colpa. Molte famiglie perderanno i loro cari, ha detto ai britannici con una frase raggelante il premier Boris Johnson. Significa lasciarli andare? Gli anziani sono i più colpiti dal virus perché sono sofferenti per altre patologie. Non sono gli unici e questo dovrebbe indurre giovani e meno giovani ad atteggiamenti di maggior prudenza. E l'editoriale continua poi a pagina 32, vi leggo l'ultima parte. L'umanità e la civiltà di una popolazione si misurano dall'attenzione e dal rispetto che è riservato alla terza e alla quarta età. L'Italia, per fortuna, ha un immenso e diffuso capitale sociale. La rete di solidarietà che si è attivata un po' ovunque a sostegno degli anziani per aiutarli a vincere la solitudine ne è una dimostrazione. In questa domenica così particolare, se facessimo una telefonata in più ai nostri anziani, staremmo tutti un po' meglio. Chi ha il ricordo dei tempi di guerra, di altre epidemie, di tante sofferenze, sa trovare le parole giuste per incoraggiare i più giovani senza esperienza e spesso senza memoria. Buona domenica. E cercherò di farlo anch'io, di telefonare alle persone anziane che conosco e a cercare di stare vicino, naturalmente in primis, e non sono bravissima a farlo, ai miei genitori o agli altri parenti anziani che ho, perché appunto meno anziana di loro, anche se anch'io ormai ho superato i 50 anni, ho forse un modo diverso di affrontare la paura, che comunque insomma tutte cose su cui riflettere in questi giorni. La Repubblica: a Roma non capiscono. La Repubblica, come vedremo anche la stampa, decide di aprire su questo allarme lanciato dalla Regione Lombardia. Il governatore Fontana, che concede un'intervista alla Repubblica: non riusciamo a trovare medici e respiratori, siamo al limite. Chiama Bertolaso per il nuovo ospedale. Sapete che nella zona dove c'è stato anche l'Expo, nella zona di Ropero, vicino alla fiera, verrà allestito questo il piano di Fontana, e al quale naturalmente darà un contributo il neonominato Bertolaso, questo ospedale un po' sull'esempio di quelli che sono stati costruiti in Cina. Poi anche Repubblica parla di questo decreto per fino a 1.400 euro di aiuti per famiglia, 100 euro agli operai che lavorano. In copertina una fotografia di Federica Pellegrini, intervistata da Alessandra Retico, trovate poi l'intervista alle pagine 42 e 43, dice: salvate l'Olimpiade. Le Olimpiadi che sappiamo sono le Olimpiadi estive, che dovrebbero iniziare a Tokyo a luglio, ma esattamente come gli europei di calcio sono a rischio. Federica Pellegrini dice che le Olimpiadi non si devono fermare, ma naturalmente non saranno fatte valutazioni sul valore ideale dello sport, ma valutazioni salute pubblica. Comunque una bella lunga intervista che naturalmente dà l'idea di che cosa voglia dire essere sportivi, avrei fatto dello sport una professione oltre che una passione, e quindi appunto augurarsi che le Olimpiadi, che sono forse l'appuntamento sportivo più importante che c'è, si svolgano. L'Espresso, in edicola come ogni domenica con la Repubblica: in questo stato, questa è la copertina, inevitabilmente legata all'emergenza coronavirus, il coronavirus chiude l'Italia, l'emergenza sanitaria, ma attacca anche l'economia, la produzione e il lavoro, coinvolge gli apparati di sicurezza e le forze dell'ordine e mette le istituzioni della Repubblica di fronte alla sfida più dura. La Stampa, come vi dicevo, come la Repubblica, punta sull'allarme che viene dalla Lombardia, che è la regione più colpita dal coronavirus, Lombardia allo stremo, così crolliamo. Fotonotizia però dedicata è la fotografia di una fotografia scattata ieri a Plaza Mayor a Madrid. Spagna e Francia copiano il modello Italia, stop a movimenti, gare sportive e scuole. E noi invece ci fermiamo un attimo per una pausa, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei quotidiani, vi segnalo oggi anche la Gazzetta che titola "Lo scudetto viene d'estate, il piano per salvare la A, conclusione a fine giugno". E ci sono tutti i dettagli, poi vedremo nelle pagine interne anche alcune dei nodi, perché naturalmente ci sono i giocatori super pagati che non credo si lamenteranno per i disagi, e poi invece ci sono i giocatori che hanno uno stipendio molto più normale, e anche non soltanto nella Serie B ma alcuni anche in Serie A, ci sono tutte le persone che lavorano nello stadio, insomma tante persone normali che lavorano in questo mondo del calcio e nel mondo dello sport in generale, che avranno conseguenze come tutti noi, e quindi ci sono anche alcune soluzioni. Poi c'è anche il problema per gli sportivi naturalmente dell'inattività, e vedremo anche lì come alcuni lo stanno cercando di affrontarlo. Il Messaggero, virus, le nuove regole sul lavoro, quindi apertura simile a quella del Corriere e del Sole 24 Ore. E poi il Messaggero segue sempre, da sempre, anche perché la sede principale di Alitalia è a Roma, la vicenda di Alitalia. Sapete che proprio quando è scoppiata la crisi da coronavirus, con il lockdown già della Lombardia e l'imminente lockdown di tutta l'Italia, è stato pubblicato il bando, apparso su tutti i giornali, perché quelli erano i tempi previsti per la vendita di Alitalia. Naturalmente tempismo peggio di così non si poteva pensare, ma è l'imprevisto. E ora però che sapete, tutte le compagnie aeree sono in crisi, da British Airways che ha annunciato tagli ancora più importanti di quelli dopo l'11 settembre, tutte le compagnie americane che anche per il blocco dei voli verso l'Europa hanno fatto altrettanto, quindi la crisi del settore, si parla di decine di miliardi di euro o di dollari di danni, e quindi l'approfondimento per quanto riguarda l'Italia lo trovate sul Messaggero, sarà lo Stato a salvare Alitalia, la crisi del settore rende impossibile la vendita. Pronta. Avvenire, così lontani, così vicini, l'Italia si ritrova unita. E la foto è la foto di uno dei tanti balconi dai quali ieri a mezzogiorno, appunto, le persone si sono affacciate cantando o battendo le mani. Il Giorno, lo scandalo di Bergamo e Milano. E una foto scattata al centro congressi di Fiera Milano City, dove potrebbe sorgere la nuova struttura. SOS coronavirus, i posti in terapia intensiva sono al limite in Lombardia, l'assessore Gallera, porteremo in altre regioni anche i pazienti Covid-19, solo la costruzione di una struttura lampo come a Wuhan aiuterebbe. Il Giornale, e qui cominciano i titoli un po' meno neutri. Governo di incapaci, Milano chiama Bertolaso, e poi l'editoriale di Alessandro Sallusti, British Collions. Il riferimento è a quel discorso che ha fatto Boris Johnson giovedì, che poi è stato mandato in televisione ed è diventato anche il titolo principale di tutti i quotidiani britannici di venerdì, dove ha detto questa frase: "Be prepared to lose some of your loved ones before time", quindi siate preparati a perdere alcuni dei vostri cari prima del tempo, quindi appunto non per cause naturali ma per il coronavirus. Un discorso che avete sentito, ha citato anche Ferruccio De Bortoli nel suo editoriale, che ha fatto molto effetto, e da qui anche il commento di Alessandro Sallusti, direttore del Giornale. Poi Vittorio Sgarbi, che come sapete, perché credo sia stato impossibile non notarlo, prima ancora del lockdown e poi anche dopo il lockdown, ha continuato a dire che il coronavirus era una sorta di invenzione mediatica o di chissà quali altre potenze, ammesso che i media siano una potenza, e che in buona compagnia, peraltro, insieme per esempio a Eleonora Brigliadori, ex conduttrice su Brett e anche autrice di libri sulla urinoterapia. Questo lo ricordo perché appunto mettere insieme una persona di una grandissima cultura, uno dei più importanti storici dell'arte, curatori di mostre che abbiamo in questo momento nel mondo, non in Italia, Vittorio Sgarbi, e Eleonora Brigliadori, convinti che il coronavirus sia una balla, però accanto all'editoriale British Collions e molti altri approfondimenti, c'è un bel richiamo al racconto di Vittorio Sgarbi che, lungi dal fare un mea culpa, dal dire sì forse ho esagerato, ci racconta la sua passeggiata nelle chiese di Roma e l'arte che ci consola, e poi lo trovate all'interno. Libero, immigrati in fuga dall'Italia, terrorizzati di essere contagiati, questi sono i dati dai quali parte Libero. Egiziani, marocchini, ucraini, albanesi e bengalesi in migliaia hanno lasciato il paese o stanno provando a farlo rivolgendosi ai consolati. E vi segnalo un intervento di doppio intervento, sapete quando Libero ospita due interventi che in generale sono di sostengono tesi diverse, li metto a confronto in prima pagina e poi all'interno, in questo caso prima pagina e pagina 8, uno di Paolo Becchi: si è rinunciato allo Stato libero e liberale, il cappello è conseguenze dell'infezione, e Vittorio Feltri: certo, capirai che sforzo tu che proponi. Antonio Socci, il morbo smantella i luoghi comuni della sinistra illusa. La verità, smascherati dalle mascherine. Quindi il tema è questo dello scontro che c'è stato ieri, lo avete sentito all'IGR, lo risentirete sicuramente, tra l'assessore alla salute della regione Lombardia Gallera, che ha detto la protezione civile ha fornito alla Lombardia strumenti di carta igienica testuale. Ma il problema dei dispositivi è più generale, sono introvabili e oggetto di speculazioni. L'ennesima prova, secondo la verità, dell'inadeguatezza di Borrelli, che è il commissario, è il capo della protezione civile e anche commissario straordinario per questa emergenza. Poi un altro a proposito di Africa, contagi in Libia ma gli sbarchi riprendono, questo un altro approfondimento della verità di Francesco Borgonovo che poi trovate a pagina 9. Il Fatto Quotidiano ci dà una sicuramente è una buona notizia, sempre però da prendere con calma, perché se è vero che su una rivista è stato pubblicato uno studio svolto dall'Università di Utrecht, dove un biologo dice trovata la cura che batte il virus, ci vuole il tempo per testarlo per bene, anche accelerando al massimo i tempi, secondo appunto questi ricercatori, terapia somministrabile già tra un mese. A questo dedica la maggior parte il più grande spazio nella copertina del Fatto Quotidiano, e poi trovate tutto nelle pagine interne. Ultima prima pagina, eroi per caso, è quella del Manifesto, i dipendenti di tutte le categorie lasciate senza protezione sanitaria alzano la voce, e come avete visto come vi ho segnalato dal Sole 24 Ore e dal Corriere della Sera che aprono su questo, dopo una notte di trattativa e 18 ore di scontro con gli industriali ottengono un protocollo per il rispetto delle più elementari misure di sicurezza, 4 miliardi di ammortizzatori sociali. Poi vi dicevo, sempre su questo tema, dalle pagine interne, dal Sole 24 Ore, pagina 3, quello che riguarda in particolare la sanità, moduli e tende fuori dagli ospedali, fondi per gli straordinari dei medici, sapete, i medici ne stanno facendo tantissimi. Poi gli approfondimenti su questo protocollo, siglato il protocollo, ecco i punti, dai turni alle ferie, pagina 5 del Sole, Cristina Casadei, che è una delle nostre giornaliste più esperte sui temi del lavoro, fa un approfondimento ulteriore, in azienda arriva il decalogo anti-Covid-19. Poi sempre sulle misure varate ieri, c'è anche un tema che riguarda lo sport, in realtà sarà affrontato, è stato affrontato in parte ieri, perché come vi dicevo anche tanti lavoratori del mondo dello sport poi potranno avere diritto, se rientrano in certe categorie, appunto a questi ammortizzatori sociali. Però intanto facciamo nella pagina consueta di Sport e Business della domenica una prima analisi di quante persone sono a rischio. Nel sistema sport 1 milione di occupati a rischio, ci scrivono Marco Bellinazzo e Davide Rotondo, che lavora per PwC, PricewaterhouseCoopers, che è una società di consulenza, club professionistici, società dilettantistiche, gestori di impianti, titolari di palestre, chiedono con urgenza al governo interventi di sostegno a partire dal rinvio delle scadenze fiscali, previdenziali e dei canoni di locazione. E poi anche altri due approfondimenti che riguardano aspetti più finanziari. Vito Lops, scusate, a pagina 8 del Sole 24 Ore, l'occasione dei mutui sottosopra, il tasso fisso costa meno del variabile. E invece Luca Davi, un approfondimento che guarda già naturalmente alla settimana che verrà, settimana in cui le borse saranno aperte, per le banche è la doccia più gelata di sempre, risale la febbre da fusioni. E poi nella sezione Lifestyle un approfondimento di Giovanna Mancini che comunque riguarda questo tema. Abbiamo visto tanti milioni di persone, di italiani che stanno svolgendo una qualche forma di lavoro agile, cosiddetto smart working, che poi vorrebbe dire lavoro intelligente o comunque telelavoro, spesso quasi sempre da casa. E a Giovanna Mancini, che scrive di design, ci spiega: tutti a casa, più comfort con le luci giuste. La scelta attenta e l'uso sapiente delle sorgenti luminose può contribuire al benessere delle persone, a maggior ragione in situazioni di lungo stress come quella attuale. Dal Corriere della Sera vi segnalo un'intervista a Fabio Panetta, che è il componente italiano del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. La politica monetaria sta sostenendo persone e aziende mantenendo i tassi bassi, addirittura negativi. È uno dei tanti tentativi che si sono fatti nei giorni successivi alla conferenza stampa di Christine Lagarde, che è il successore di Mario Draghi alla guida della BCE, è l'ex presidente del Fondo Monetario Internazionale, non proprio l'ultima arrivata, e però ha fatto una conferenza stampa che molti hanno definito disastrosa, perché ha fatto alcune dichiarazioni che hanno fatto precipitare in particolare la Borsa di Milano. Anche lei, mea culpa, manco per idea, ha fatto poi delle piccole correzioni, e ovviamente anche di questo Daniele Manca chiede a Fabio Panetta. E dice ci faccia capire cosa avete deciso giovedì scorso, perché inizialmente i mercati non avevano proprio compreso. Piazza Affari ha perso il 17%. E Panetta spiega: giovedì scorso, giorno appunto della conferenza stampa, abbiamo ridotto il costo dei finanziamenti alle banche. Qui è molto delicata questa questione, sono stati scritti addirittura dei libri, uno l'ha scritto Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, su quanto devono stare attenti anche alla scelta delle parole i governatori delle banche centrali, perché a torto o a ragione sono visti come degli oracoli, e quindi le loro parole hanno un peso enorme. Poi sulla sostanza è un altro conto, cioè in effetti delle misure ci sono. Adesso vedremo se nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, dalla BCE arriveranno altre dichiarazioni o verranno annunciati altri provvedimenti. Il Corriere della Sera è l'unico giornale che è riuscito a mettere la notizia della negatività di Donald Trump al test. In conferenza stampa aveva detto: l'ho fatto, sto aspettando il risultato ed è appunto negativo. Come sapete, naturalmente il problema è che il test dà una negatività al momento in cui viene fatto, dopodiché nulla garantisce che nelle ore successive, nei giorni successivi, la persona diventi positiva al coronavirus. Quindi forse sarebbe auspicabile che tutte queste persone che stanno avendo un ruolo cruciale, presidente Trump, ma tutti gli altri capi di Stato e di governo, si sottoponessero ciclicamente al test, o magari anche molto spesso. Ci lasciamo un attimo però per una pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Grazie a tutti gli ascoltatori che stanno ascoltando, stanno mandando messaggi al 349-238-6666. C'è un ascoltatore che mi dice: associare Brigliadori e le sue stranezze a Sgarbi è un gioco facile. Sgarbi non professa convinzioni sue, ma tesi di altri virologi. Allora, lo ricordo ancora una volta, perché questo è un tema secondo me importantissimo. La virologia, l'epidemiologia, l'infettivologia, in generale la medicina, si stanno dimostrando scienze non esatte, come purtroppo la natura, i misteri della natura, anche di questo piccolo nemico che è il coronavirus, sono non sono risolvibili pur con tutti i progressi che abbiamo fatto. Quindi ci sono tesi diverse, ne abbiamo sentite tante, questa in particolare che Sgarbi e altri hanno sposato. Un ascoltatore mi ricorda anche Zingaretti all'inizio, ricorderete che è venuto sui Navigli a fare l'aperitivo, a stringere mano una settimana prima di risultare positivo al coronavirus. Anche Massimo Giletti riprendeva costantemente queste teorie, questo tweet in realtà di una dottoressa del Sacco, che nel frattempo ha fatto marcia indietro, non in maniera abbastanza importante secondo il mio modesto parere. E quindi dice: siccome la medicina non è scienza esatta, le tesi hanno la stessa dignità degli altri. Sì, però se poi alla fine una tesi diventa minoritaria e le altre diventano palesemente maggioritarie, forse appunto un mea culpa non gioverebbe. A proposito di questo, vi segnalo proprio su questo tema del fatto che la scienza procede nel tentativo naturalmente di trovare delle soluzioni e quindi propone anche dei punti interrogativi, una pagina di Repubblica, da una parte un'intervista a un immunologo, Mihai Netea, dell'Università di Rabud, che dice: i vaccini obbligatori forse sono l'arma che aiuta i bambini, perché abbiamo visto analizzando per classi di età le persone che sono colpite e le persone che muoiono, che per esempio tra i bambini in effetti l'incidenza è molto bassa. Una possibilità potrebbe essere questa. Non ci sono certezze, sono filoni di studio sui quali gli immunologi stanno lavorando. E poi invece un epidemiologo, sempre a pagina 22 della Repubblica, Guido Bertolini dell'Istituto Negri di Bergamo, che dice: le donne sono meno colpite, anche questo è un dato che viene dall'analisi appunto delle statistiche, prima dalla Cina, poi della Corea del Sud e adesso di tutti i paesi europei coinvolti. Le donne sono meno colpite, forse difese naturali grazie agli estrogeni. Abbiamo veramente pochi minuti, ma ci tenevo, avevo messo da parte qualche articolo che non riguarda il coronavirus, per esempio dal Sole 24 Ore un'analisi di Marco Niada sulla pace in Afghanistan, una scommessa che si può vincere. Quindi un'analisi a circa 2 settimane dalla firma di quell'accordo di pace, per capire se questo accordo di pace ha un futuro. Poi la notizia l'avrete sentita sicuramente, l'ha trovata su molti giornali, di Luca Tacchetto e la compagna canadese Edith Blaze, che erano stati rapiti in Burkina Faso. Interessante intervista a Freddie Highmore, che è il protagonista, è un attore inglese nato nel 1992, che è il protagonista di The Good Doctor, questa serie TV che va in onda su Rai 2, che secondo me è interessantissima sia per la sua interpretazione, perché è bravissimo, sia per il tema, cioè interpreta un medico affetto da autismo e quindi tocca tutta questa, naturalmente una forma dello spettro autistico che gli ha permesso di studiare, di laurearsi e anche di lavorare, quindi diversa da tante altre forme che impediscono questo tipo di inserimento nella società. E però giustamente l'attore dice: Sean ci ricorda quanto l'umanità sia incredibile e che forse ha più cose in comune di quanto si pensi. Vi dicevo le municipali, Maria Latella, che naturalmente è una voce conosciutissima qui a Radio 24, tra l'altro domani mattina la sentirete a 24 mattino, ci racconta appunto le municipali di Parigi, 3 donne in campo alla conquista di Parigi. Oggi primo turno, favorita la sindaca uscente, la socialista Hidalgo, a incazzarla l'ex ministra di Sarkozy Rachida Dati, e Macron dopo gli scandali ci prova con Agnès Buzyn, e vedremo appunto. E arriviamo allora in questi veramente ultimissimi minuti ai supplementi domenicali, e inizio come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che si intitola Non esagerare. Non esagerare mai. Compito dell'uomo attento è il non parlare mai per superlativi, sia per non esporsi al rischio di offendere la verità, sia per non sminuire la propria prudenza. Ne quid nimis, nulla di troppo, è uno dei motti più noti e ripetuti fin dall'antichità, a partire dal commediografo latino Terenzio, che visse nel secondo secolo avanti Cristo, per giungere a Manzoni, che lo pone sulle labbra dei galantuomini, critici verso la generosità del cardinale Federico Borromeo. A riproporre la sostanza di questo detto è l'erudito spagnolo Baltasar Gracián nel suo Oracolo Manuale, testo del 1647, ammirato e tradotto in tedesco dal filosofo Schopenhauer. La verità di questo monito ha raggiunto il suo apice, ma al negativo, nei nostri giorni, ove impera l'esagerazione a tutti i livelli, soprattutto nel linguaggio dei politici, non tanto per lodare, quanto piuttosto per offendere, criticare, detestare e ingannare. Basti solo avviarsi su uno dei viali della rete informatica per essere travolti da una serqua di insulti, attacchi, falsità, eccessi di ogni genere. Ormai trafitta a morte non è solo la prudenza, ma anche la dignità stessa di chi offende, e non solo dell'offeso. Gracián concludeva: l'esaltare è un ramo del mentire, e a maggior ragione lo è il denigrare, l'infamare, l'infangare. La copertina vera e propria, però, è un testo di Roberto Casati che si intitola Non sfregarti gli occhi mentre stai leggendo. Cambiamenti comportamentali. Se c'è una lezione che arriva oggi dal coronavirus è che per fare le cose giuste o smettere di fare quelle sbagliate non basta deliberare la regola, bisogna mantenerla. E sempre dal domenicale vi segnalo una lunga recensione di Mauro Ceruti a un libro di Davide Sisto che si intitola Ricordati di me, la rivoluzione digitale tra memoria e oblio, ed è appunto questo libro che racconta questa profonda piacevole riflessione sui nuovi modi di ricordare nel tempo digitale, dove la dimensione online è la nostra seconda casa. E poi troverete su tutti i supplementi domenicali la recensione a una mostra che era prevista a Basilea, la Fondazione Bayerler, avrebbe dovuto iniziare e durare poi fino al 17 di maggio, e naturalmente è stata sospesa come molte altre mostre per la chiusura dei musei, e era una mostra che credo molti aspettavano da tempo, perché ci sono 65 opere di Hopper, Edward Hopper, il pittore statunitense, sedotti dalle case di Hopper, ce lo racconta Ada Masoero. Come sapete, tantissimi musei si stanno attrezzando per essere visibili online e per fare appunto delle visite virtuali. Adesso vedremo se le mostre mostre speciali faranno lo stesso, ma in questo appunto può essere un aiuto internet. E poi vi segnalo la recensione di Francesca Milano a questo libro molto interessante, anche se sicuramente doloroso da scrivere, probabilmente, ma anche da leggere, che si intitola Non superare le dosi consigliate. Lo ha scritto Costanza Rizzacasa d'Orsogna, lo ha pubblicato Guanda, e riguarda quel disturbo alimentare particolare che porta all'obesità, ma in generale i disturbi alimentari. La recensione si intitola Quando essere grassa è un peso. La lettura del Corriere della Sera affida la copertina a Corrado Levi. E poi vi segnalo anche qui purtroppo un libro la cui uscita è slittata, era un'anteprima della Strada di casa, il libro di Kent Aruf che uscirà poi da NN. Aruf, cioè Eastwood, ce lo racconta Alessandro Piperno, si chiama appunto La strada di casa, l'unico romanzo dello scrittore ancora inedito in Italia, ma come vi dicevo dovremo aspettare ancora un po'. E un'altra recensione bellissima di Anna Chiara Sacchi, sempre sulla lettura, al libro di Naoko Abe, Passione Sakura, la storia dei ciliegi ornamentali giapponesi e dell'uomo che li ha salvati. Naoko Abe narra la vita di Collingwood Ingram, l'inglese che salvò tanti sakura nipponici. Il suo però è soprattutto un viaggio nel Giappone del Novecento dove il fiore più amato diventa strumento di propaganda, simbolo non più di rinascita ma di vita fugace. Era l'ultima segnalazione per oggi, grazie a Carmelo Lauricella in regia, ancora una buona domenica a tutti voi da Giulia Crivelli.